Leone Lagone. Penso così che si parlasse di me con la frequenza paragonabile a quella di musicisti che oggi, insomma, sono ancora sulla breccia e vanno anche per la maggiore. Qualche anno prima, ecco, direi era sulla fine degli anni 50, addirittura così, ecco, era una delle promesse della giovane musica italiana, ecco, in questo senso ho avuto anche i miei momenti di gloria così. Oggi ci ripenso non con nostalgia, proprio no, con una certa ironia naturalmente, ma questo non significa che io abbia abdicato dal mio mestiere di compositore, tutt'altro, penso di anzi di averne dato una versione che perlomeno per quello che riguarda me trovo molto più interessante della precedente. Non è che mi diverte singolarmente parlare di me, anche perché parlare di sé in qualche modo è vedersi già come un po' stando al di fuori, ecco, io invece ci tengo a stare dentro in tutti i sensi a questa vita, quindi non mi interessa molto storicizzarmi. Penso quindi anche che gli ascoltatori non siano eccessivamente interessati a fatti di carattere biografico, ecco, se però ne parlo lo stesso è perché in qualche modo penso che alcune cose di queste che verrò dicendo possono così essere esemplificative, non direi esemplari, ma esemplificative di una situazione del comporre, di una situazione del compositore, di questa figura ormai accreditata da alcuni secoli, che come è noto è entrata in crisi, ha attualmente le sue difficoltà e queste difficoltà sono, si manifestano in maniera diversa da persona a persona. Ecco. In questo senso io sono un esempio fra i tanti, forse un esempio aberrante, ecco, in questo senso può essere anche interessante per l'ascoltatore così seguire un pochino la traccia di questa mia avventura nel mondo della musica. Ecco, dirò subito che non è un'avventura nel mondo della musica, non solo nel mondo della musica. Ecco, io nasco, si può dire, alla vita culturale in maniera polivalente, come si dice oggi, no? Ho frequentato per 5 anni la facoltà di fisica, mi ricordo che i miei primi professori di fisica, che alcuni dei quali ricordo con molto piacere, parlo di Ageno, parlo di Amaldi, parlo di Bernardini, e così quando parlavano con me e penso anche tra loro di me, vedevano in me una sorta di promessa della fisica, ecco, una promessa che ovviamente non ho mantenuto, però per 5 anni comunque mi sono dato da fare in questo ambito e delle tracce penso siano rimaste, tracce più che evidenti anche nel seguito della mia carriera poi culturale. In seguito, per chiudere questa parentesi carattere universitario, mi sono laureato in lettere dopo altri 6 anni, ho un curriculum universitario straordinariamente lungo. Mi sono laureato in lettere, mi ricordo con una tesi su Thomas Mann e la musica. Ecco, Thomas Mann è stato un punto di riferimento direi di tutta la mia vita, da quando almeno l'ho conosciuto intorno ai primi anni 50, mi ricordo prima ancora di leggere Dr. Faustus me ne parlò Goffredo Petrassi più volte sollecitando la mia curiosità e da allora Thomas Mann è rimasto una delle grandi passioni della mia vita e direi che ha segnato anche molte delle tappe di questa vita in maniera anche aberrante rispetto a quello che poi diciamo è dettato maniano in senso stretto. Io ho cercato in molti casi più o meno consciamente di vivere nella pratica, nella quotidianità alcune delle cose, delle diciamo degli indirizzi che si possono leggere per esempio nel Giuseppe e i suoi fratelli. Parallelamente agli studi universitari ovviamente ho condotto quelli musicali. Mi sono diplomato, mi pare, intorno al 48 dovrebbe essere stato, in pianoforte, ero allievo di Rodolfo Caporali e a lui devo molto, non tanto direi per, diciamo, per il fatto pianistico in quanto tale, non sono mai stato pianista e penso che qualsiasi speranza ormai posso anche deporla, ma proprio per la sensibilità che in qualche modo lui mi ha educato ai fatti dell'interpretazione, ai fatti musicali in genere. Poi il mio maestro della vita, insomma, della mia vita di musicista è stato Goffredo Petrassi. A dire la verità, in maniera ufficiale l'ho frequentato solo 3 anni, cioè i 3 anni del corso superiore di composizione al Conservatorio di Santa Cecilia, però dopo ci ha legato una lunga, affettuosa amicizia che dura ancora oggi, e devo dire che il mio maestro, lui è stato, rimane, e probabilmente rimarrà sempre, in senso naturalmente estremamente lato. Direi che, ecco, io forse degli allievi di Petrassi sono stato il meno petrassiano dal punto di vista letterale, ecco. Non riconoscerei forse suoi influssi diretti in nessuno dei miei lavori, anche in quelli recenti no, però il suo modo di pensare, il suo modo di critico di porsi di fronte ai problemi della musica e del comporre, direi questo per me è stato determinante. Probabilmente c'era già qualcosa del genere in me, certo lui l'ha fatto esplodere e soprattutto gli ha dato durevolezza. Tuttora il mio pensiero è debitore in larga parte a quello di Goffredo Petrassi. Quindi più matrici culturali costituiscono la base formativa del pensiero di Boris Porena. Ma veniamo agli inizi della sua attività compositiva. Se mi capita talvolta di ripensare ai miei inizi di compositore, non saprei nemmeno con chiarezza dove collocarli. Per esempio, ho dei ricordi della mia prima infanzia, in cui era una grande aspirazione per me quella di essere un compositore, un grande compositore. Certo, i bambini vogliono sempre essere grandi, quindi il compositore non bastava. Però ricordo anche con una certa precisione, intorno ai 12 anni, 13 anni, che io pensai che lo studio e la pratica musicale potessero in qualche maniera così integrarsi con invece il pensiero di tipo scientifico, cioè un'esperienza di tipo estetico-artistico, un'esperienza di scientifica, in qualche maniera avrebbero dovuto dare l'uomo culturale completo. Questa era la mia idea intorno ai 12-13 anni. E in qualche maniera questa idea oggi la vedo realizzata nella mia vita, anche se in maniera molto diversa da come mi immaginavo allora. Però qualche cosa evidentemente uno conserva di questi primi così baluginamenti del pensiero infantile. Quindi come compositore va bene, a parte i primi tentativi infantili, ma grosso modo intorno all'epoca del diploma mi riconosco in quanto tale. E devo dire, all'inizio ho avuto anche una certa fortuna, nel senso che non ho avuto le grosse difficoltà che vedo oggi, per esempio hanno i miei allievi al conservatorio per avere le loro prime esecuzioni. Io l'ho avuto con relativa facilità. Ricordo per esempio il maestro Previtali, che era direttore stabile di Santa Cecilia a quell'epoca, che prese molto a ben volere alcuni miei pezzi e li eseguì, direi, magistralmente, e in questa maniera mi fece conoscere al pubblico romano, che devo dire fin dall'inizio mi accolse con molta simpatia. Ecco, questo era attribuibile in parte, penso, anche al tipo di musica che io scrivevo nei primi anni della mia carriera di compositore, fino all'epoca al 58, cioè al mio incontro con Darmstadt. Ero dominato da un'idea della musica come comunicazione, come rapporto con il prossimo. Quindi c'era da parte mia un rifiuto quasi radicale, oggi lo vedrei insomma un pochino così, un po' ingenuo, di alcune posizioni dell'avanguardia che io conoscevo poco, ma comunque in qualche maniera conoscevo. E ricordo appunto un mio atteggiamento francamente e forse aggressivamente neoclassicheggiante, che non era naturalmente molto accetto agli ambienti che invece contavano musicalmente, era invece accetto al pubblico. Io mi rendevo conto di questa situazione un po' ambigua in cui mi venivo a trovare, tanto che non avevo per esempio simpatia verso tutti i miei colleghi che si muovevano in un'analoga direzione, cioè di facilità, di facile comunicabilità musicale. Ero molto diffidente verso di loro. In qualche modo avrei voluto essere l'unico a fare questo tipo di operazione. In realtà poi eravamo in molti. Comunque ricordo con piacere una composizione in particolare che fu eseguita alcune volte, non moltissime, e che tuttora reputo forse la cosa più simpatica, ecco, non saprei quale altro aggettivo usare, che io abbia scritto. Ed è una cantata su versi di Goethe e si chiama Der Gott und die Bajadere, Il Dio e la Bajadera. È una cantata, anzi io la chiamai Lied, e ricordo che scrissi questo pezzo con relativa facilità in poco tempo, e con grande partecipazione. Mi ricordo un'intensa commozione durante la composizione di questo pezzo e anche dopo nell'ascoltarlo, e questa commozione stranamente mi si rinnova ogni volta che mi capita di farlo, molto, molto poco a dire la verità. Così si conclude il Lied di Porena, Il Dio e la Bayadera, del 1958, e in tale anno si chiude anche la sua prima fase compositiva, in coincidenza con la frequentazione dei corsi di Darmstadt. Il 58, io arrivo a Darmstadt fresco e ingenuo come molti miei compagni. Ricordo, adesso non saprei ben distinguere il 58 dal 59 e dal 60, cioè i 3 anni che sono andato a Darmstadt. Ricordo comunque che stavamo assieme con Aldo Clementi, c'era Guaccero, c'era Mauro Bortolotti, c'era Boggianchino, Insomma, molti personaggi che poi sono rimasti sulla scena, diciamo, della vita musicale italiana. Per tutti noi era un po' un'avventura, era qualcosa che in qualche maniera molti avevano intrasentito tra le pieghe di ciò che arrivava in Italia, che però nessuno conosceva per via diretta. E quindi tutti siamo stati piuttosto scioccati, chi in un senso e chi nell'altro, da questa esperienza. Ricordo, mi pare proprio fosse il primo anno, il mio incontro con Nono, con Gigi Nono, che mi fece un'enorme impressione. Ecco, io a Nono debbo molto, sia dal punto di vista musicale e sia come dal punto di vista del rapporto fra musicista e uomo civile, uomo politico. Io aprì in quegli anni gli occhi probabilmente al sociale, al politico, e in parte questo si deve al calore immenso che suscitava la vicinanza di un personaggio come Gigi Nono. Conobbi in quegli stessi anni anche Stockhausen, per cui diciamo non ho mai avuto questa forma di ammirazione strepitosa, che però forse più in là mi ha interessato più stabilmente che non il caso Nono. E meno sono stato colpito da Boulez, che ho conosciuto e ho rivisto varie volte anche in seguito, e che mi è sempre sembrato una persona molto, molto civile, di grandi qualità anche musicali, ma forse, come potrei dire, un pochino limitato nel suo intellettualismo, nella sua razionalità spinta. È un uomo da cui forse non mi aspettavo le levate di capo, le ingegnosità, le trovate di uno Stockhausen, né diciamo l'impegno, l'ardore di un Gigi Nono. Ho conosciuto John Cage mi fece anche lui una grossissima impressione, che è rimasta nel mio ricordo come un'impressione simpaticissima. Non sono molto interessato alle sue teorie, diciamo, soprattutto alle teorie che sono derivate da lui, qualche volta un po' semplicistiche, un pochino superficiali nel coniugare Oriente e Occidente. Come persona invece mi è rimasto un ricordo estremamente luminoso, estremamente affascinoso, per quel tanto di infantile, di graziosamente infantile che lo distingueva. Nell'insieme Darmstadt era insopportabile, devo dire. Era una roccaforte di terrorismo musicale. Ricordo quegli anni come particolarmente pesanti nella mia carriera. È pesante anche tutto quello che ne ha seguito, soprattutto le ripercussioni che ho avuto a livello mentale. C'è una sorta di rifiuto a Darmstadt e in tutti gli ambienti che erano collegati con Darmstadt per tutto ciò che non era darmstadtiano. E io non ero darmstadtiano, né potevo né volevo diventarlo. E quindi ho sofferto molto di questa situazione, perché ovviamente mi sentivo in qualche maniera escluso, ma non da fuori, mi sentivo escluso da dentro, questo che è peggio. Non avevo nessuna possibilità io di entrare in quella sorta di pseudo-Olimpo che alcuni pensavano che fosse Darmstadt, perché non ci volevo entrare di fatto. E questo lo pagavo amaramente, ma ripeto, lo pagavo più al mio interno che non al mio esterno. Diciamo, esternamente la mia fortuna, grosso modo, era quella media di un compositore di quegli anni lì. Non posso lamentarmi, avevo le mie esecuzioni, non molto numerose, ma non scrivevo neppure molto, anche perché, a differenza del primo periodo, adesso faticavo enormemente a scrivere. Una battuta per me era un travaglio di giorni e giorni. Non c'era nessun rapporto fra l'investimento di lavoro effettivo in un pezzo di musica e poi il rendimento che questo aveva nel rapporto con il pubblico. Questa situazione si andava sempre più incancrenendo durante gli anni 60 fino a diventare paralisi totale intorno al 67-68, anno in cui ufficialmente ho smesso di fare il compositore. Era un breve estratto dall'inizio della musica per orchestra numero 1, un lavoro che potremmo dire chiude questa seconda fase creativa di Boris Porena. Di lì a poco vi sarà la svolta decisiva nel suo intendere la musica. Siamo alle soglie del 68. Ma cosa ha significato per Porena il 68? È stato per me quello che è stato per molti. È stato un anno importantissimo, un anno che io non mi sentirei mai di rinnegare. Oggi molto spesso si ride a questo 68, se ne evidenziano i tratti negativi che sicuramente ci furono e si dimentica quasi del tutto l'enorme apporto di idee, di criticismo che quest'anno portò. Il nuovo rapporto che effettivamente c'era fra l'uomo della strada, fra lo studente, fra il lavoratore e il mondo delle cose che contano, il mondo che in qualche maniera ci sovrasta e che ci condiziona, il mondo della cultura, il mondo della politica, il mondo dell'industria, il mondo di tutti coloro che in qualche maniera determinano il futuro del nostro pianeta. Ecco, quegli anni furono gli anni in cui tutti abbiamo potuto parlare, abbiamo cominciato a parlare e a riconoscerci come partecipi, come coattori della nostra vicenda terrena. E, diciamo, dal punto di vista compositivo furono anni per me estremamente interessanti, estremamente travagliati. Abbandonata l'attività ufficiale, come ho detto, improvvisamente trovai un enorme interesse all'attività musicale di base. Cioè mi cominciai a guardarmi in giro, a vedere che il mondo era pieno di gente, c'erano i bambini dei quartieri, c'erano i bambini delle campagne, c'era tanta gente che con la musica non aveva forse nessun rapporto e noi pensavamo che la nostra attività in qualche maniera avesse un peso, contasse qualche cosa, quando in realtà nel mondo contava mi sembrava molto poco. Allora la mia idea era di vedere se la musica potesse avere un'altra dimensione sociale, potesse avere un altro rapporto con il mondo e con le cose di quanto non mi fossi immaginato fino a quel momento. E per far questo non potevo certo continuare a lavorare a casa mia, a riflettere filosoficamente sullo stato della musica, dovevo scendere in piazza, dovevo scendere nelle scuole, dovevo scendere nelle fabbriche, dovevo scendere a contatto con i lavoratori di qualsiasi tipo, con gli anziani, con gli handicappati, con i ragazzini dei paesi, con i piccoli centri urbani, suburbani, e vedere che cosa la musica significava in quelle condizioni. Ecco, i primi anni dopo il 68 furono per me anni di una frenetica attività di ricerca di luoghi della musica, di luoghi dove la musica in qualche modo significasse, parlasse, avesse un senso. E però naturalmente questa ricerca portò non poche delusioni, mi sono accorto quanto poco la musica di fatto era presente nel mondo, era presente nella nostra società. E questa constatazione si accompagnava però a un'altra constatazione, che di quanto la musica avrebbe potuto in qualche modo invece essere parte integrante, essere parte attiva, essere parte dirigente di uno sviluppo culturale che doveva per forza di cose essere generale, essere di tutti, non solo di alcuni. Quindi le prime riflessioni su come utilizzare la musica in un contesto diverso, come utilizzare la musica a finalità diverse, che non fossero solamente endomusicali, ma fossero in qualche maniera finalità di carattere più generale, in cui la musica era al servizio di. Ed è dei primi anni 70 il varo di una nuova importante realtà didattica nei conservatori italiani, il corso di nuova didattica della composizione, cui Porena ha dato un sostanziale contributo. Io insegnavo già da alcuni anni al Conservatorio di Pesaro e intorno al 72 fui chiamato a far parte di una commissione ministeriale che doveva istituire un nuovo corso di composizione, quello che poi fu chiamato il corso di nuova didattica della composizione che oggi è la scuola sperimentale di composizione. E ricordo che partecipai a queste sedute iniziali di programmazione del nuovo corso e trovai una singolare coincidenza fra le possibilità che intravedevo di un nuovo modo di adire allo studio della composizione, quindi anche di insegnare la composizione, e un nuovo modo di porsi della musica nel mondo, nella società. Trovai, ancora per via puramente intuitiva, dei legami fra una possibile utilizzazione della musica, per esempio in una scuola elementare, per esempio in una scuola materna, per esempio in un piccolo centro del tutto demusicalizzato, e in una situazione privilegiata come il conservatorio. Però, ripeto, ancora le cose erano allo stato di intuizione più o meno vaga. Intuizioni di questo genere sono oggi ancora leggibili e penso anche con un certo interesse, in un libretto che scrissi proprio in quegli anni, che si chiamava Musica Società e fu edito da Einaudi, che costituisce un po' la premessa, le lucubrazioni, direi ancora a livello personale, di tutte cose, di tutte esperienze, indirizzi che poi ebbero il loro sviluppo negli anni successivi. Perché la fase didattica sia correttamente rappresentata nel processo autogenerativo della società, occorre che essa sia chiaramente riconosciuta e distinta. Esempi di insufficiente chiarezza e improduttiva ibridazione con altri modi discorsivi, la critica musicale sui quotidiani, l'insegnamento confessionale o comunque indottrinante, l'ammonimento morale, la volgarizzazione scientifica, salvo rare eccezioni, la letteratura educativa, i discorsi sulla funzione catartica della musica, i giochi, libri, istruttivi, le edizioni facilitate, le trascrizioni musicali a fine divulgativo, le vite romanzate, le trasmissioni radiotelevisive a quiz, le trasmissioni radiotelevisive non a quiz, la maggior parte, la didattica genitoriale gravata da rapporti edipici, la didattica dei registri di cattedra, la didattica della cattedra universitaria, le dispense universitarie, la didattica musicale nei conservatori, eccetera. Non si dice che essa, la fase didattica, debba presentarsi necessariamente allo stato puro, non possa cioè mescolarsi in varia misura ad altre fasi. È piuttosto la sua funzione, quella di mettere a disposizione ipotesi di discorso, non di statuire verità, che deve conservarsi intatta pur nelle eventuali associazioni con altre forme di discorso. Anche in questo caso, tutto il complesso, fase didattica in relazione al discorso globale della società, è oggi indagabile quasi esclusivamente nei suoi esempi, in larga parte negativi, alcuni dei quali più sopra citati. Questo perché il potere è assai meglio informato di quanto effettivamente non ci insegni. Sui meccanismi di strutturazione comunicale della società, altro caso di insufficienza didattica per indebita commistione con la politica, o meglio con una precisa ideologia politica. Alcune righe tratte da Musica Società, un libro che Boris Porena pubblica nel 1975. Quindi anni intensi, anni di riflessione e di sperimentazione, anni che vedono la ideazione e la creazione di una importante iniziativa in Sabina. Ma sarà lo stesso Porena a parlarcene, mentre lasciamo che siano poche note pianistiche ad introdurci all'argomento. Il brano è estratto da La scuola della asimmetria, uno dei numerosi testi didattici di Porena, e chi suona è Eva Serena, una bambina frequentatrice del centro di Cantalupo, di cui tra poco parleremo in dettaglio. Figlio di Musica Società fu la fondazione del Centro di Ricerca e Sperimentazione Culturale Musica in Sabina, qui a Cantalupo, dove siamo sul momento. E siamo nell'anno 74 ed è, devo dire, fu per me l'inizio dell'avventura più straordinaria che mi sia capitato di avere, almeno finora. E mi trovavo così quasi per caso ad essere possessore di una piccola casetta qui a Cantalupo, e iniziai qui a lavorare musicalmente con i ragazzi del luogo, con i bambini delle scuole del circondario, quindi dei paesi vicini, e con alcuni ragazzi 14, 15, 16 anni che venivano regolarmente da me a questo che io avevo chiamato centro, che in realtà poi era, come è ancora, lo scantinato di casa, punto e basta. E devo dire, appunto, le sorprese a cui andai incontro, specialmente i primi 2 o 3 anni, non si contano. Mi sono accorto che il fatto di comporre è qualcosa di molto diverso da quello a cui ero abituato fino allora, cioè qualcosa di chiuso, di estremamente specifico, qualcosa che richiedeva un'enorme preparazione, probabilmente del talento, probabilmente di una serie di preorganizzazioni genetiche, cose di questo genere. Niente di tutto questo. Comporre è una cosa normalissima, cosa che chiunque può fare in qualsiasi condizione, come si compongono le parole, come si compongono i piatti su un tavolo, come si compongono i colori su una qualsiasi superficie. Comporre di per sé stesso non è un'attività che richiede praticamente nulla che l'uomo non abbia di sua per natura. E questo, questa cosa qui l'ho imparata dai ragazzi qui di Cantalupo. Mi ricordo, vennero proprio ancora i primi mesi, quando di musica non sapevano assolutamente niente, con delle composizioni scritte che erano, da dir poco, strabilianti, almeno allora mi sembravano tali, oggi mi sembrano malissimi. E lo stesso all'attività che intrapresi nelle elementari portò dei risultati incredibili. I ragazzini di prima, seconda, terza, quarta elementare erano in grado non solo di comporre delle situazioni informali, cioè di suoni non codificati, di rumori, quindi molto interessanti e raffinate, ma scrivevano tranquillamente anche con le note delle melodie, poi anche delle piccole cose a due parti, che stavano in piedi benissimo, provviste di una loro logica interna, di una loro grazia, perché no? Questa mia scoperta che la musica, il comporre in particolare, fosse una cosa abbordabile da chiunque, in particolare da bambini, anche da persone senza nessuna conoscenza tecnica della musica, pensavo che dovesse rivoluzionare un pochino la didattica musicale, che sia addirittura il rapporto fra musica e società. E in realtà la cosa non fu così. I primi anni, almeno, i miei colleghi, il mondo ufficiale, guardò con molta diffidenza queste nostre esperienze di Cantalupo. E mi ricordo anche delle dimostrazioni di fiera inimicizia da parte anche di colleghi, di persone con cui fino a qualche anno prima avevo avuto un rapporto buono, insomma. Forse si pensava che chissà io in qualche maniera avessi manomesso i testi che presentavo, che fossero addirittura opera mia, insomma si pensavano diverse cose alquanto strane. E di lì alcuni anni però la situazione si normalizzò e oggi posso dire che tutti i programmi ufficiali della scuola media, della scuola elementare, i libri che sono usciti in quantità enorme su questo argomento, cioè sull'insegnamento della musica e sulla musica di base, e di fatto recano evidenti le tracce di questa nostra esperienza, così come anche ovviamente di altre esperienze importanti fatte in Italia. Dopo i primi anni veramente di fuoco, che ricordo come un'avventura incredibilmente entusiasmante della mia vita, e subentrò appunto un'abitudine a questo stato di cose, e quindi contemporaneamente però anche a uno spostamento di interesse, sia di tutto il centro, cioè dei suoi componenti, in prevalenza erano ragazzi qui del luogo, sia anche miei personali. L'esperienza musicale ci sembrò in qualche maniera poter fare da prototipo per delle esperienze analoghe in altri campi. E cominciamo così a sperimentare, anche grazie al fatto che erano entrati al centro dei ragazzi con altre competenze, per esempio in campo pittorico, in campo logico, in campo anche del movimento, della danza, e facevamo quindi delle esperienze che uscivano fuori dal campicello musicale. Ci siamo accorti che cose del tutto analoghe a quelle che noi sperimentavamo con i suoni si possono sperimentare con i segni sulla carta, con i colori, si possono sperimentare con le parole, con i gesti, e che quindi non tanto una specificità musicale, anche se diversa da quella tradizionale, avevo scoperto, quanto mi stavo probabilmente ritrovando in un indirizzo pedagogico-didattica di portata molto generale. Intorno agli anni 80, diciamo, la nostra attività non è più prevalentemente musicale. Siamo ormai consolidati in varie scuole della zona, ma soprattutto siamo consolidati, direi, nel panorama scolastico italiano attraverso innumerevoli corsi da noi fatti un po' in tutte le regioni. E diciamo, la nostra sperimentazione riguarda sostanzialmente altri campi. E segnalo come particolarmente fruttuosa le ricerche fatte in campo visivo, anche grazie appunto all'intervento di un nostro collaboratore Sandro Pamini, che mi ricordo fu molto attivo in quegli anni, e in particolare anche di mia moglie Paola Buccian, che oltre a essere violoncellista è stata, direi, una delle colonne di questa esperienza, non solo per quello che riguarda la musica, ma anche per quello che riguarda l'esperienza del visivo. In anni ancora più recenti c'è stata un'incursione nostra, grazie anche appunto all'appoggio di un altro nostro collaboratore, Raul Collepiccolo, in campo logico, e direi che anche lì probabilmente dei risultati sono stati conseguiti, anche se non sono stati resi noti come invece lo sono stati quelli musicali. Contemporaneamente l'attività del centro si era estesa anche a livello politico-organizzativo, e fra le tante cose veramente di grandissimo interesse che ho vissuto qui come membro del centro, ne vorrei segnalare due. Una, un corso di formazione che facemmo per operatori culturali della provincia di Roma, un corso fatto a nome della Regione Lazio, che durò 3 anni e che formò, di fatto, preparò degli operatori culturali di base, quindi niente affatto musicisti, non c'entrava niente la musica, direi di buonissima qualità, che purtroppo poi per le vicende politiche molto alterne della nostra regione non sono state mai utilizzate a dovere queste forze. Contemporaneamente un altro ramo della nostra attività, direi non meno interessante e importante di questo pedagogico didattico, è stato quello politico organizzativo, che dopo anni ci portò alla costituzione di un consorzio intercomunale per la cultura. Qui in Sabina un fatto del tutto nuovo, del tutto inimmaginabile solo 5-6 anni prima. Alla base di questa molteplice attività e soprattutto di questi collegamenti orizzontali fra la branca, diciamo, pedagogico-didattica, il musicale in senso stretto e l'altro aspetto politico-organizzativo, c'era un tipo di pensiero, una sorta di metodologia che poi divenne di fatto probabilmente la spina dorsale di tutta la nostra attività, e tuttora è la spina dorsale del mio personale pensiero e penso anche del pensiero di molte persone che sono venute a contatto con me. A questo modello metodologico abbiamo dato un nome, e il nome è ipotesi metaculturale. Con tale appunto termine intendendo un'ipotesi che in qualche maniera è relativistica rispetto a qualsiasi orientamento culturale. Ipotesi metaculturale è definita dalla sospensione del principio di non contraddizione e dalla sua reintroduzione locale in rapporto a progetti culturali riconosciuti e dichiarati. Quest'ultima precisazione è empirica e, se si vuole, arbitraria. È però necessaria per le applicazioni pratiche, didattico-pedagogiche, politico-organizzative, eccetera, che a noi del centro metaculturale ci riguardano assai più che non la ricerca astratta di una formula definitoria. Ipotesi metaculturale è essenzialmente un'ipotesi di lavoro, un costrutto culturale ad hoc, asservito a un progetto che va esplicitato assieme alle sue motivazioni e finalità. Il progetto in cui ipotesi metaculturale si iscrive è apparentemente in contraddizione con l'ipotesi stessa, il che peraltro non dovrebbe preoccupare troppo chi l'assume. Se infatti ipotesi metaculturale ha come conseguenza applicativa la relativizzazione di ogni ideologia a un orizzonte progettuale limitato e riconosciuto, d'altro canto la scelta di ipotesi metaculturale come ipotesi guida è essa stessa una scelta ideologica e come tale relativizzabile. In altre parole, non avremmo argomenti validi per definirla nella sua generalità, neppure in sede progettuale. Se però, come intendiamo proporre, ipotesi metaculturale si assume come valida entro un progetto locale riconosciuto e dichiarato, la contraddizione cade, o meglio rientra nel quadro, anche formalmente congruente, con ipotesi metaculturale. Qual è allora il progetto involvente di ipotesi metaculturale? Il progetto suona quasi ingenuo nella sua ambiziosa vastità. Sintetizzato in uno slogan, lo si può esprimere così: la pacificazione planetaria da ideologia a tecnologia. Naturalmente queste molteplici attività, non specificamente musicali, che andavo conducendo assieme ai miei colleghi qui del centro, ha risvegliato in me molti degli interessi sopiti da tanti anni, per esempio quelli per le materie scientifiche, per esempio gli interessi filosofici, gli interessi di carattere epistemologico. E così mi sono venuto dedicando, ecco, per parecchio tempo a diciamo composizioni non di carattere musicale, ma appunto composizioni di carattere concettuale, composizioni di carattere culturale in generale. E ho scritto diverse cose, nessuna delle quali pubblicata in forma ufficiale, la maggior parte anzi ancora allo stato di dattiloscritto, che riguardano i più diversi campi del praticamente del pensiero. In particolare mi sono dedicato per alcuni anni alla logica, che non avevo affrontato in anni giovanili, e purtroppo riesce molto difficile se uno si accosta in anni avanzati, come nel caso mio. Tuttavia penso che proprio l'interesse che mi portava a questo tipo di argomento, anche per l'attività che conducevo, in qualche maniera anche in quel campo ha prodotto qualche risultato. Ecco, posso dire quindi che la mia attività compositiva non si era sopita, anche se non lo era di fatto, perché intanto stavo scrivendo molte opere di carattere didattico, ma soprattutto non si era sopita perché io componevo con altri termini che non fossero le note. Componevo situazioni sociali, componevo situazioni mentali, componevo di fatto anche diciamo i problemi quotidiani del centro. Quindi fra i tanti interessi che mi si sono risvegliati in questo periodo ci sono stati anche gli interessi di tipo, diciamo, letterario. Però tutto era sempre dominato da questa vena pedagogico-didattica che in qualche maniera evidentemente c'era sempre stata, che però era venuto fuori come non mai prima. E ricordo per esempio con piacere, alcuni anni fa scrissi una serie di piccole storielle per bambini, per ragazzi, non solo per bambini, che poi sono state effettivamente utilizzate qui nella scuola della Sabina e pare con dei risultati eccellenti. Erano delle storielle a impostazione metaculturale, cioè sostanzialmente critico-relativistica, e facevano da pendant a quello che contemporaneamente andavo facendo in campo musicale, cioè alle composizioni che stanno per pianoforte, al metodo stesso per la composizione, alle composizioni che poi ho fatto per violoncello e così via. C'era una volta un drago che dubitava di esistere. I suoi nonni, quelli sì che erano esistiti veramente, ne parlavano i libri, la gente ancora si raccontava le loro storie, i bambini ancora ne avevano paura. Ma lui, nessuno credeva più alla sua esistenza. Quando lo incontravano nel bosco dicevano: «Guarda laggiù quel tronco, sembra proprio un drago». O se gli capitava di svolazzare sui tetti delle case: «Guarda lassù», gridavano i bambini, «guarda quella nube che sembra un drago». Un giorno aveva sputato fuoco su una catasta di legna e la gente aveva detto che c'era caduto su il fulmine. E così il drago aveva cominciato a dubitare di se stesso e della sua esistenza. «Forse non ci sono», pensava. «Forse finora ho soltanto creduto di esserci. Forse per esserci veramente anche gli altri debbono credere che io ci sia». E dalla tristezza si faceva ogni giorno più piccolo. Finché un giorno, un bel giorno d'estate, se ne uscì al sole. Un bimbo lo vide e gridò: «Guardate, una lucertola!» E da quel giorno il drago visse felice e contento fino alla fine della sua esistenza. Era la storia del drago che dubitava di esistere, che abbiamo estratto da brevi racconti scritti di recente da Boris Porena. Ma ritorniamo all'attività compositiva con materiali musicali. L'attività di composizione musicale in senso stretto non l'avevo mai abbandonata, era diventata una delle tante, e direi però proprio perché era una delle tante non mi impegnava più dal punto di vista ideologico, morale, esistenziale come aveva fatto prima, era diventato un modo per porsi in relazione col prossimo, niente più. E in particolare era venata di quel interesse didattico-pedagogico che avevo sviluppato così fortemente grazie al centro. E però per una strana coincidenza, probabilmente non è affatto strana, semplicemente per ritrovate motivazioni allo scrivere, Il comporre mi era diventato di nuovo facilissimo. Ricordavo prima che negli anni 60 la composizione era per me una sofferenza quasi indicibile, che mi rese quegli anni, degli anni devo dire infernali dal punto di vista lavorativo. Adesso no. Proprio il fatto che io sapevo per quale ragione componevo, non componevo certo per l'esecuzione alla Santa Cecilia, al Festival Tal d'Italia o alla Filarmonica, componevo per una ragione molto semplice, perché doveva servire a una situazione di apprendimento musicale, non direi di apprendimento di uno strumento, di apprendimento del pensiero musicale, doveva servire a una situazione didattica. Quindi diciamo questa nuova destinazione della musica di fatto ha risvegliato in me probabilmente tutta una serie di interessi e compositivi che prima la mia situazione di prima non permetteva. Quindi adesso naturalmente non sono né la persona né sono in grado di giudicare che cosa di fatto dal punto di vista qualitativo di che cosa ho fatto in questi anni. Posso solo dire che il piacere, la soddisfazione, la facilità, la ricchezza anche di spunti, di atteggiamenti, di una certa disinvoltura che non avevo mai conosciuto prima, o forse avevo conosciuto solo nei primi anni della mia carriera, era stata in qualche maniera ritrovata. E che oggi ancora non solo non mi abbandona, ma direi negli ultimi due anni si è manifestata con sempre maggiore intensità. Direi che oggi la situazione di Cantalupo non è più florida come era 10 anni fa, per ragioni anche obiettive. Non siamo più nella scia del 68, anzi oggi siamo in una scia direi nettamente contraria. Tutta l'esperienza di Cantalupo nasce da quelle premesse, quindi non è ben alloggiata nel mondo attuale. In compenso però io ho riconquistato una capacità, una vena di compositore che spero ancora mi possa accompagnare per parecchi anni. Vorrei rendere qui agli ascoltatori, ai pazienti ascoltatori di questa nostra chiacchierata, una testimonianza appunto di questo mio periodo creativo attuale, che è conseguente a tutto il lavoro a cui accennavo prima. Ecco, come caratterizzazione generale di questo periodo, cioè delle cose che vado facendo da qualche anno, vorrei dire questo: che manca in queste composizioni la identificazione ideologica dell'autore con l'opera. Direi che questo è forse ciò che più le caratterizza. Nessuna di queste esprime, come si diceva, come si dice ancora, il mio stile, un mio modo di pensare, un mio modo di essere. Sono delle operazioni che io compio su materiali che in qualche maniera sono preesistenti, su dati culturali spesso tra loro discordanti, che in qualche maniera si modulano uno con l'altro. Ecco, cito un esempio, quello che adesso vi farò ascoltare, ed è il primo tempo di una sonata che non a caso si chiama Sonata quasi una parodia. Il titolo stesso è una parodia della Sonata quasi una fantasia di Beethoven. E la sonata, in quanto tale, è la parodia dell'opera 109 di Beethoven, che io ho riscritto puntualmente, battuta per battuta. L'ho riscritta modulandola con una grammatica, con una sintassi, con una problematica compositiva che ovviamente non è quella di Beethoven, ma è quella mia, o direi quella mia filtrata attraverso l'esperienza di tutti questi anni, o ancora si potrebbe dire dell'esperienza del mondo della cultura di oggi. Thank you. Era la puntata dedicata a Boris Porena del ciclo sui musicisti contemporanei di Emanuele Pappalardo e si conclude così la seconda ed ultima parte di antologia. Sono le 19:59 e Andrea Damascelli al microfono di Radio 3. La redazione di antologia, Mirella Fulvi, Giorgia Niso e Andrea Damascelli ora al microfono, vi ringrazia e vi dà appuntamento a domenica prossima per il quarto degli incontri con lo scrittore Raffaele La Capra.